Disinformat Novara, solo per presentare, diciamo così, lo stampato che abbiamo fatto per stasera. Sostanzialmente parto da quello che diceva lui, cioè un momento difficile, è un momento però anche, diciamo così, molto interessante per la Palestina, nel senso che queste elezioni, al di là proprio della scadenza, voglio dire, burocratica, elettorale, avvengono in un momento per cui effettivamente noi sulla 3 che abbiamo distribuito parliamo degli ultimi 4 e passa anni come di un periodo di stasi, cioè di una stasi in cui sono successe delle incredibili tragedie umane, perdite di vite, distruzioni materiali, eccetera eccetera, ma sostanzialmente un periodo in cui le prospettive, diciamo così, della lotta per l'autodeterminazione dei palestinesi non si sono in realtà mosse di molto. E indichiamo in quello che abbiamo scritto 2, diciamo così, elementi di possibile mutamento. Non ci sono, secondo me, delle strade obbligate, delle prospettive che verranno per forza. Però, da un lato, il fatto che il governo israeliano di Sharon si stia muovendo in modo deciso verso un ritiro unilaterale da Gaza, e dall'altro... E dall'altro il fatto che ci siano queste elezioni palestinesi che vengono in un momento molto particolare, beh, prima di tutto perché non sono frequenti le elezioni nel sistema politico palestinese, dell'autogoverno palestinese, ma tanto più oggi che vengono dopo la morte di quello che era il leader storico dell'OLP e il referente maggiore del governo autonomo palestinese, cioè Arafat. Per cui queste elezioni contribuiscono, diciamo così, possono contribuire ad aprire o chiudere prospettive nuove. L'invito che facciamo a tutti, e chiudo perché non voglio essere troppo lungo, abbiamo già ritardato, è quello che faceva Andrea, cioè di mantenere l'attenzione viva sulle elezioni, ma ancora di più sul periodo post-elettorale, sulle scadenze che ci saranno successivamente, le organizzazioni militanti come Al-Fatah, Hamas e tutte le varie branche. Per cui quasi sicuramente sarà Abu Mazen il trionfatore delle elezioni, anche in modo abbastanza netto, credo io. Questo non significa che, diciamo così, prima, durante e dopo queste elezioni non si giochino tutta una serie di questioni molto importanti per quanto riguarda, diciamo così, l'assetto del campo palestinese, e in particolare tutta una serie di dinamiche di contrasto molto rilevanti all'interno di Al-Fatah, che era il movimento poi di Arafat e del movimento di Abu Mazen. Per cui rimaniamo collegati, eventualmente sull'ultima pagina del nostro opuscolo c'è anche tutta una serie, proprio in questo senso, in quest'ottica, c'è tutta una serie di siti di attualità o di analisi più, diciamo così, più un pochettino più scientifica, piuttosto che di siti che seguono problemi particolari. Abbiamo cercato di dare a ciascuno quanto più possibile un quadro della situazione, eventualmente i mezzi per mantenersi aggiornato e informato.